140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Un nome prezioso nel mondo indipendente. Nuovo album, il quarto, per Paolo Cattaneo. Si intitola Una piccola tregua. Paolo, ti posso chiedere intanto di raccontarmi e di raccontare agli ascoltatori un po' di te? Allora, inizio come musicista o come uomo? Ma tutte e due. Credo che poi alla fine le due cose non siano totalmente scindibili. Sì, diciamo che ho iniziato prima come musicista che come uomo, secondo me. Sono... Accidenti. Sì, perché ho iniziato come musicista molto presto. Come violinista, quasi nessuno lo sa, anzi non è scritta in nessuna biografia. Ero piccolino, avevo 5 anni, la prima volta che sono andato ad ascoltare un'orchestra con mio padre mi ero fissato nello strumento ad arco di questo violino e ho iniziato a fare conservatorio. Poi in età un po' più, diciamo, da ragazzino ho avuto un periodo in cui mi sono appassionato agli strumenti con sonorità basse, quindi in quel momento lì ero fissato col basso elettrico, col contrabbasso, dove io sono diplomato, tra l'altro ho suonato in orchestra contrabbasso per alcuni anni nell'orchestra del Veneto. Da lì secondo me è iniziata veramente la mia carriera da musicista. Come si arriva dal violino al conservatorio, all'orchestra, invece al panorama indipendente che tu frequenti ormai da un po' di anni? Ma guarda, è stato un passaggio che è passato attraverso il rock, anzi più che altro attraverso il glam rock, perché io ho finito violino, penso che sia gli anni della un po' più della contestazione, della voglia di, dell'esigenza di aver qualcosa da dire sempre contro i genitori, cioè riuscire a trovare una chiave diversa, e quell'età lì è stata l'età in cui ho iniziato a suonare basso elettrico in un gruppo rock. Quindi ho proprio abbandonato completamente la musica classica. Da lì poi ho affrontato il mondo indie per via delle recensioni. Ti riconoscevano affinità? Sì. Echi affinità. Magari parlavano di affinità con la scuola cantautorale romana, oppure Battiato. Io non avevo, a 18 anni io non avevo mai ascoltato Battiato. A forza di leggere nomi ho iniziato anche a volerli, insomma, approfondire. Se il tuo male fosse un cane, mi lascerei sbranare lacrime e carne, il tuo letto come un treno mi consuma le unghie, lo devo lasciare. Si vive da protagonista appunto della scena indie adesso che la scena indie è quella più mainstream di tutti? Sì, io pensare a definire indie, effettivamente la scena indie oggi non può più esserci, anche perché prima c'era una netta distinzione tra i due pensieri, perché c'erano anche delle etichette discografiche che facevano loro stesse una forte distinzione, la possibilità di venire in radio importanti per chi non era molto conosciuto, molto famoso, era praticamente impossibile. Quindi oggi diciamo che si è mischiata, che è una cosa molto bella in realtà. Ti chiedo un paio di cose sul disco. Allora, intanto il titolo è Una piccola tregua. Da cosa dobbiamo prendere una piccola tregua? Per me una piccola tregua non è una fuga, è proprio la capacità di riuscire a vivere all'interno della nostra quotidianità, aprire delle piccole finestre che sono completamente nostre. Comunque, io sono molto, da questo punto di vista, mi piace vivere l'oggi e penso che il domani sarà ancora più bello di oggi. Penso che l'unico modo per riuscire a rimanere se stessi è aprire delle piccole finestre per fare in modo che all'interno tu abbia unicamente il tuo mondo. Ridere, ridere d'amati, chi riderà ultimo. Ho saputo che fai anche un lavoro più normale, un po' più quotidiano nella tua vita di tutti i giorni. Come si concilia e quanto una dimensione arricchisce l'altra? Ma ho la fortuna di fare comunque un lavoro vicino all'arte, perché è uno studio grafico, quindi comunque ha una vicinanza con ciò che è l'immagine, no? La creatività. E una volta ero molto più rigido sulla distinzione tra i due mondi. Avevo due agende, avevo due telefoni, cioè per me nessun cliente poteva sapere che io avevo anche la passione della musica, ero un cantautore, facevo i live. Invece pian pianino imparare a gestire i due mondi, trasformarli, farli unire e farli diventare un unico flusso che so, facciamo un'intervista adesso, poi uscendo magari parlo con qualcuno che ha stampato una brochure, poi rientro con i ragazzi e parliamo di musica, è la contaminazione che insomma di cui c'è bisogno oggi. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Paolo Cattaneo. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.